so, a volte non esco e resto da solo. La mia vita è una storia infinita di intrighi lampanti che assumono un suono. Mi riguardo allo specchio mentre osservo il pensiero più vecchio, il silenzio che tinge l'orecchio, ho una mosca che fuga nel seio. Ehi, ehi, quante cose che ho perso, quante lacrime adesso che verso. Ci ho provato ma poi non riesco a riuscire a vedermi diverso. Ogni volta che sono depresso guardo nell'anima del mio riflesso, guardo nel centro di ogni universo, guardo nel mondo di quel cui mi caccio. Le pugnalate, le botte, pensioni distorte, giornate già storte. Ma le bugie sono corte, la verità è notte e quindi non si sa. Per un'anima vera c'è chi ci spera in un'atmosfera e sa. Ma chissà che farà la gente che mi dimenticherà. È il mio giorno peggiore, ma in questo grigiore passano le ore. La mia testa è in piena confusione, ma nessuno qui importa il mio amore. Sono passato pure troppo da coglione, ed è questa la mia reputazione. Sono stanco, non so se un giorno mai reagirò, ma adesso chiudo la porta e vado via per un po'. E questa è l'ultima goccia, scusa, vado di corsa, non tentarmi per forza con i problemi che ho. Sono in macchina adesso, ho pensiero che parla a me stesso. Ma mi fermo il semaforo rosso e mi incanto guardando ad un punto. Ma che tempo, che noia, vedo un padre che copre la figlia. Ad un tratto il telefono squilla, non rispondo alla solita troia. E già mi manca la voglia di scoparmi una scema che ingoia. E se ci parli poi seriamente, lei ti dice non ho capito niente. Vorrei tornare ad amare, ma per farlo mi devo fidare. Per adesso non lo so fare, lascia stare, non ci pensare. Con un tocco di brezza, la pioggia cade e bagna con dolcezza. Quando mi assale mi blocca la tristezza, è sempre in auto che arriva l'amarezza. Non so che cazzo farò, stasera esco anche un po'. Magari mi tiro su, è meglio della TV. Una birra con gli amici, e vaffanculo e pensieri infelici. E tu coscienza che cazzo ti ridi, ogni volta mi guardi e sorridi. Ecco qua, mi sto per divertire, ho il sorriso sulle labbra e non dire. E no, non mi cominciare a fare paranoia perché fai male. Quanti anni hai? Cosa cazzo fai? Dimmi un po', come stai? Laureato, diplomato, e la tua tipa? Ah, t'ha lasciato. E da grande, cosa che vuoi fare? Dimmi un po', cosa che vuoi fare? Cosa vuoi fare da grande? Ehi, cosa vuoi fare da grande? Io sono stanco, non so se un giorno mai reagirò, ma adesso chiudo la porta e vado via per un po'. Questa è l'ultima goccia, scusa, vado di corsa, non tentarmi per forza con i problemi che ho.